Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo? Ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a nove code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno caro ascoltatore di Radio 24, buon inizio di settimana, questo 28 dicembre post natalizia, purtroppo attenti a noi due per qualche giorno, e sarà attenti a me stesso Oscar Giannino, perché Alessandro Milan si è preso qualche giorno di meritatissimo riposo e lo abbraccio a distanza, e naturalmente quindi la trasmissione grava un po' sulle mie spalle, soprattutto però cercheremo con gli ospiti in questi giorni di festa di movimentare il vostro inizio di giornata, e naturalmente con io confido molto sulle vostre telefonate all'800 24 00 24 e gli sms 349 238 6666. Allora vi dico subito l'argomento del giorno è praticamente soprattutto uno, almeno giudicando dai giornali e dallo spazio che ha sui GR telegiornali, perché sapete il blocco del traffico che per tre giorni c'è a Milano, mentre Roma targhe alterne, ha finito per diventare un grande problema politico nazionale subito dopo Natale, perché citerò qualche articolo, commento, interviste sui grandi quotidiani, si dibatte se il blocco di tre giorni del traffico a Milano e le targhe alterne a Roma siano nient'altro che una riproposizione di misure di tantissimi anni fa, 30 anni fa. Siamo sempre alla riproposta di soluzioni non strutturali di fronte al fatto che per vicende meteorologiche, per settimane, le polveri sottili vanno oltre i limiti di legge, cioè 50 parti PM10 per microgrammi per metro cubo, e a quel punto si blocca. C'è chi blocca, c'è chi alterna le targhe, c'è chi non fa nulla, come se poi l'area fosse corrispondesse ai comuni, ai confini comunali, e non ci fosse un problema comune, quindi di politiche energetiche e di emissioni. Ci si ferma sul traffico trascurando le caldaie e così via. Quindi la domanda diventa: siate milanesi, siate romani, siate italiani, se volete telefonarci dite, ma voi ci credete a queste misure così spot assunte dai sindaci, o non bisognerebbe coordinare tutto, sono solo palliativi, o comunque è un bene? Naturalmente i dati, lo vedremo, sono come sempre all'italiana: c'è chi spara decine e decine di migliaia di morti, c'è chi riduce a metà, chi ci riduce a un terzo. E quindi noi avremo anche come ospite tra poco l'assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano, proprio per capire con lui quali sono le ragioni del blocco. Oggi c'è il sindaco di Milano Pisapia che si difende in un'intervista a Repubblica contro tutti gli attacchi. Ricapiterò qualche altro articolo di giornale. Ci abbiamo un altro ospite poi nel seguito della trasmissione, perché poiché in questi giorni di festa molti italiani e molti turisti ne approfittano per visitare o rivisitare musei italiani e per girare per pezzi del nostro capolavori di cultura, grandi palazzi storici eccetera eccetera, abbiamo il più grande archeologo italiano, Andrea Carandini, che ci terrà compagnia, e con lui, come presidente del FAI, che è una delle istituzioni del terzo settore più attive nel volontariato e nella tutela del patrimonio storico e architettonico del nostro paese, ci porremo il problema se lo Stato davvero fa quello che deve, o se invece lo Stato è quasi un ostacolo alla tutela e al patrimonio dei beni culturali. È stato presidente anche del Consiglio Superiore dei beni culturali, Andrea Carandini, quindi il suo punto di vista è due volte più importante, per così dire. Ma oltre alla questione del blocco del traffico, su quale voglio dire solo alcune cose. Quali altri temi sui giornali di oggi? Innanzitutto, se una cosa mi ha colpito è, come al solito, su questa questione del blocco del traffico e delle conseguenze della salute, l'impreparazione con cui i media hanno affrontato la questione dal punto di vista scientifico, perché i giornali radio e telegiornali sono direttamente cascati in una semplificazione che non so se Beppe Grillo abbia voluto deliberatamente o in cui sia in corso perché qualcuno magari gli ha segnalato i dati. Che cosa è successo? È successo che Beppe Grillo ha sparato il dato la stima delle morti per inquinamento del nostro paese nel 2015 dicendo sono 68.000, perché 68.000 in realtà è la differenza stimata dall'Istat dei morti in totale in Italia nel 2015 sul 2014, cioè passiamo a 666.000 da 598.000 morti in Italia nel 2014. Naturalmente non è che sono tutti dovuti all'inquinamento, né in quel caso c'è una stima fattoriale delle diverse ragioni, però Grillo ha sparato questa cifra e i telegiornali di GR gli sono andati dietro. Poi nel frattempo, nelle ore, si è capito che la chiave di questo, il fondamento scientifico di questa stima non c'era assolutamente. E tuttavia, se voi sfogliate i maggiori quotidiani, troverete che in realtà di certezze su questo non ce n'è. Per esempio, se andate sul Corriere della Sera trovate un'intervista oggi al presidente dell'Istituto di Sanità, il professor Ricciardi, che parla di salute a rischio, di targhe alterne inutili, sono misure che vengono ripudiate dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che pure non sottovaluta affatto la situazione, perché dice le malattie sono in aumento e dice basta con le soluzioni tampone, cioè la sua tesi è una tesi radicale, non sono i confini tra un comune e l'altro quelli che cambiano o che possono misurare l'efficacia di queste misure puramente tampone. Quindi, non essendo uno che il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che vuole diminuire l'impatto del fenomeno, però si guarda bene dal fare alcun numero, dice le malattie sono in forte aumento, c'è una stima del contributo del traffico allo smog che da parte del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità dice che è superiore alla diffusione delle polveri sottili al 50% a Milano e al 70% a Roma. Vedremo che anche queste percentuali, che servono per capire se serve davvero fermare il traffico, variano di fonte in fonte. Comunque il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Ricciardi, non fa assolutamente una valutazione delle cifre. Se andiamo invece alla Stampa, troverete sulla Stampa Francesco Forestiere, che è un epidemiologo, e Francesco Forestiere ha, diciamo, molti meno dubbi rispetto al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, perché si va a leggere una stima addirittura città per città di quanti mesi di vita tolgono le polveri sottili nel nostro paese. La posizione di Francesco Forestiere, che ha diretto questo studio VIAS del Ministero della Salute, incardinato presso l'Università Bicocca di Milano, stima in circa 35.000 morti le morti premature in Italia per effetto dell'inquinamento. Quindi qui siamo non ai 68.000 di cui ha parlato Grillo, che sono semplicemente i decessi stimati in più nel 2015 rispetto al 2014, ma una stima fatta da uno studio ad hoc degli effetti delle micropolveri diffuse nell'area del nostro paese, e qui si parla però di 35.000 morti l'anno. E anzi si fa una differenza tra città e città, e addirittura nelle stesse regioni tra città capoluogo e capoluoghi di provincia, che devo dire è raccapricciante. Quindi raccapricciante perché, ripeto, di questi 10 mesi di vita diventano 14 mesi di vita in meno a nord e 6 mesi di vita in meno al sud, con una classificazione naturalmente di tutti gli effetti, malattie cardio e cerebrovascolari, cardiovascolari, infarto, scompenso cardiaco, eccetera, eccetera. E a un certo punto però l'intervistatore della stampa chiede: ma come mai però l'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa limiti di PM10, cioè delle polveri sottili, molto più severi rispetto ai valori stabiliti da Bruxelles? E qui si entra nel fatto che poi il Francesco Forastiere inizia a dire: beh, insomma, ognuno fa come gli pare, perché il problema è che ci vorrebbero limiti molto più pesanti, ma a quel punto si fermerebbe l'economia. Naturalmente anche Francesco Forastiere, cioè il coordinatore di questo progetto che dice 35.000 vittime, dice alla domanda: ma sono utili i blocchi del traffico a targhe alterne? Risposta: le targhe alterne non tagliano le emissioni che più del 10-15%, quindi non servono a nulla, non è una misura davvero efficace. Solo un blocco totale protratto potrebbe davvero servire. Deve essere un blocco totale dalle 8.30 alle 20.30, non come a Roma dalle 10.30 alle 16.30, non si sbloccherebbe nulla. Ecco, questo per dire che, come vedete, la stima degli effetti dal punto di vista epidemiologico e anche del tipo di misure assunte nelle diverse città è una stima che da parte degli scienziati che vengono citati sui giornali oggi è un po' ballerina, per così dire. Allora, io per il momento mi fermo qua per la parte diciamo scientifica. Non vi dico in questi giorni naturalmente la polemica che c'è invece sui quotidiani, che è di parte politica, visto che il tema si è affermato, quello del blocco delle misure anti-inquinamento nelle città. Quindi abbiamo per esempio oggi sul Corriere Formigoni che dice: è tutto come 10 anni fa, mi fanno ridere, ai miei tempi c'era un coordinamento molto più efficace tra comune, regione e provincia. Di Pisapia che si difende invece su Repubblica, ve l'ho già detto. Ieri sul giornale di Milano Claudia Terzi, l'assessore regionale all'ambiente, bocciava al comune di Milano: soluzioni perdenti, occorre più programmazione. Naturalmente la polemica, se la scienza, come avete visto, è abbastanza, non dico divisa, ma ha una forbice di posizione abbastanza ampia. Altro esempio di questo, l'intervista sul Messaggero di Franco Prodi, il fratello di Romano, che segna Fisica dell'atmosfera, è un'intervista che vale la pena di essere letta, proprio perché Franco Prodi è su una posizione molto diversa da quella di Forastiere della Stampa. Dice: ma noi sui modelli climatici e gli effetti davvero delle interazioni delle produzioni economiche non possiamo dirci così certi, per così dire, bisogna che la politica stia più attenta agli scienziati, ma insomma non abbiamo se non dei segnali che preoccupano da una parte, ma non è col blocco quotidiano che noi risolviamo. Un'altra voce da tenere in considerazione per capire che, come si vede, la politica va un po' attentoni da questo punto di vista. Allora, io qui ci ho bloccato l'indicazione dei nostri ospiti. Ce l'abbiamo l'assessore Maran, ecco perché questa è bloccata. Sono qui. Buongiorno, allora. Buongiorno a lei. Buongiorno, lei è con noi l'assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano, per Francesco Maran. Allora, forse mi avrà sentito in questi ultimi minuti, sì, Riepilogare un pochino le diverse questioni. Allora, chi a Milano attacca dicendo sentite gli scienziati, forse non è il modo di procedere quello del blocco totale per 3 giorni. Voi che risposta politica date? Ma intanto il sentite gli scienziati serve sempre quando, esatto, Insomma avvalla la propria tesi. Infatti, poi sono come abbiamo visto, ci sono anche tesi un po' diverse, insomma. Esatto, no? Ma anche perché poi sono le stesse voci che ci dicevano che non andava bene nemmeno quando ci sono delle misure strutturali, perché sull'efficacia di blocchi temporanei possiamo discuterne a lungo, io non ho impegni, mi dica lei, però va anche detto che città come Milano hanno preso negli anni delle misure strutturali importanti. Pensiamo al fatto della congestion charge, il pedaggio del pagamento in 100. Tutti i dati dicono che negli ultimi 10 anni Milano ha ridotto le emissioni del traffico del 22%. Certo non è sufficiente, e lo abbiamo visto in un inverno dove per 2 mesi non ha piovuto, però per esempio nel 2013-14 per la prima volta nella storia Milano è rimasta dentro uno dei parametri ambientali sul PM10, cosa che non era mai accaduta prima. Questo ovviamente non significa che siamo fuori dall'emergenza, lo vediamo chiaramente in questi due mesi. Indica che però una strada di misure strutturali è in corso. Poi in questo caso abbiamo deciso di accompagnarla, visto la straordinarietà dell'inverno, con questa misura del blocco di 3 giorni, però mi permetta di dire, non è che non si fa niente 364 giorni l'anno e il giorno in cui scatta l'emergenza si fa i blocchi tutti. Noi ci stiamo occupando da anni del tema, con delle misure che a livello europeo vengono considerate tra le migliori pratiche per la riduzione del della congestione del traffico e delle emissioni inquinanti, come ricordava anche lei, e va ben segnalato ai cittadini, perché poi ogni volta su questo punto almeno tutti gli esperti sono concordi, e il problema è che l'opinione pubblica fa finta di niente, cioè il traffico è comunque la principale causa di emissioni in una città. Ma molti però di quelli città. Che poi restano bloccati dicono, beh sì, insomma sarà la principale, forse non è proprio il 70%, perché le stime vanno poi tra il 40 e il 50 e così via, ma fa altrettanto significativamente, strutturalmente, sulle caldaie, le emissioni di riscaldamento cittadino, sugli impianti ancora vecchi, condominiali e così via? Allora, intanto diciamo, le stime dicono che tra il 50 e il 70% le emissioni da traffico, mettiamo anche che hanno torto ed è il 40%, resta comunque la causa principale di emissioni che abbiamo, quindi intervenire sul traffico è comunque indispensabile se vogliamo ottenere dei risultati. Poi c'è anche il tema delle caldaie, si fa abbastanza sulle caldaie, è complicato, nel senso che intanto ognuno di noi che fa parte, che va ad un'assemblea di condominio sa quanto è difficile la discussione sulla caldaia. Ohimè. Ricordiamoci che nonostante tra l'altro a livello statale ci siano contributi anche fino al 65% per il cambio delle caldaie, quindi non si può dire che a livello nazionale non sia un tema presidiato anche economicamente, ciononostante sappiamo in maniera ragionevole le difficoltà che hanno i privati. Sulla parte pubblica sicuramente bisogna fare sempre di più, però segnalo anche due dati, per esempio quest'anno nella nuova linea della stagione termica gli edifici allacciati al teleriscaldamento a Milano sono cresciuti del 10%, alcuni degli edifici più inquinanti della città, per chi conosce Milano l'anagrafe di Via Larga, il comando dei vigili di Piazza Beccaria, il Duomo stesso, da qui a pochi giorni saranno allacciati alla rete di teleriscaldamento. Allora, sicuramente anche su questo fronte bisogna fare di più, e le dico anche che in questi giorni dove abbiamo messo l'obbligo di abbassare la temperatura di 1 grado, si è visto in maniera plastica come il sistema anche tecnologico che abbiamo nei nostri edifici fa fatica a permettere l'abbassamento di 1 grado, cioè funziona più a spento e a più temperatura alta che a regolazione, ma questo purtroppo larga parte degli edifici pubblici e privati della città. Allora, su questo campo bisogna investire ancora di più, ma non è che non è stato fatto niente. Ma non esclude il fatto che si debba fare anche sull'altro fronte, che è il principale per la città, per le città, non solo per Milano, che è quello del traffico. Ma voglio dire, siccome poi la notizia insomma sui giornali è che solo 12 comuni intorno a Milano aderiscono alla misura che avete assunto, no? Come sì. La misura del blocco. Allora, che senso ha non prevedere un coordinamento stabile affidandosi invece ai singoli enti locali per queste misure? Voglio dire, essendo un problema comune, padano per così dire, stante proprio la conformazione dei venti e gli effetti climatici che hanno nella diffusione delle polveri sottili in questa parte d'Italia una particolarità rispetto ad altre. Allora, che senso ha non prevedere un coordinamento strutturale e che il sindaco di volta in volta qui dica 2 giorni, 3 giorni lì, targhe alterne, lì nulla. Guardi, sono totalmente d'accordo con lei sul punto. Dopodiché, e mi faccio anche dire una cosa, poi nella vita cerco di non farlo più, che su questo aveva ragione Formigoni, cioè fino ad alcuni anni fa a livello regionale, in Lombardia, ma anche in alcuni passaggi anche di tutto il nord, vi erano delle convocazioni prima dell'inverno che fissavano. Quindi è vero quello che dice Formigoni, c'era una pianificazione comune a prescindere dal colore politico, ma perché è un problema comune. Sì, però io non vorrei fare né nella telefonata né in generale scaricabarile, perché poi non funziona e non no, è questo certo. Il punto. Dopodiché però noi abbiamo sollecitato la Regione Lombardia perché tutti gli esperti ad esempio concordano che per esempio è meglio un blocco totale del traffico che le targhe alterne, nel senso è meglio provare a far alleggerire l'aria in maniera drastica. Secondo, dicono tutti, è meglio su un'area vasta che su un'area ristretta, perché l'area evidentemente non ha confini, e tra l'altro se uno guarda dall'alto la Pianura Padana non è che il problema ce l'ha il Comune di Milano. Sì, esatto. E su questo noi abbiamo chiesto alla Regione un intervento. La risposta è stata: il Comune di Milano si occupi del territorio del Comune di Milano. Io se avessi potuto scegliere e avessi avuto un ruolo diverso, avrei chiesto a tutti i comuni del territorio, o avrei imposto nel caso della Regione Lombardia, un provvedimento di natura più lunga. Tra l'altro noi abbiamo scelto una fascia 10-16 su cui, diciamo, nei giorni tra Natale e Capodanno di sicuro qualcuno danneggeremo nelle proprie attività, però diciamo che i disagi gravi sono alti. Ma questo lo capisco. Dall'altra parte, che ne so, l'epidemiologo che è Francesco Forestiere, quello citato dalla stampa, intervistato dalla stampa, sì, e che ha coordinato il progetto Via Simbicocca, direbbe: è una misura palliativa, farà pure molto discutere quella di Milano, ma appunto, siccome è in giorni non di grande traffico e comunque, per quanto passi come blocco totale, non è un blocco totale perché non inizia dalle 7 del mattino fino alle 21, certo. Lui direbbe, Francesco Forestiere, lo scienziato, direbbe: beh, insomma, comunque una misura palliativa, tanto per far vedere che si fa qualcosa, quindi non si sa mai a chi dare retta. Sì, no, beh, intanto però siccome il fatto che l'adesione esterna sarebbe stata più o meno quella che abbiamo registrato, lo sapevamo, non è che se facevamo 10 ore anziché 6 di blocco si triplicavano i comuni. Su questo, diciamo, il buon senso ci dice che forse l'adesione era inversa, insomma. Poi però mi consente anche un altro punto: fino a quando noi non abbiamo convocato il blocco, il tema era omesso dal dibattito pubblico. In effetti si parlava più come se fosse una questione di colore, la questione delle targhe alterne a Roma. Allora, io adesso la Regione ha convocato oggi pomeriggio, tra l'altro appena finito il blocco, una cabina di regia per discutere dell'argomento. Il Governo ha convocato il 30 dicembre i sindaci e i presidenti della Regione per discuterne. Io spero che da questi due incontri emergano alcune misure strutturali utili per il paese, al di là delle emergenze. Io ne cito anche alcune, no? Faccio un esempio, per esempio tutti gli esperti adesso le diranno che da assessore si vuole allargare a ministro nazionale. No, anzi, tra l'altro su questo il ministro Galletti è uno che comunque si informa e prova anche a consultarsi con il territorio, però insomma approfitto del palcoscenico per provare a dirle. Per esempio tutti gli esperti concordano che il tema ovviamente è che in Italia abbiamo troppe macchine, ma in particolare quelle diesel sono quelle più problematiche. Allora, noi ai proprietari delle Euro 3 diesel, tra l'altro che vengono considerate 10 volte più inquinanti delle... Ma le darebbe più incentivi oppure basta, stop, fine, chi ce l'ha deve smetterle? Guardi, io credo che in Italia abbiamo troppe macchine, sinceramente, e un po' troppo poco trasporto pubblico. Quindi il fatto che negli anni 70, 80 e 90 noi abbiamo vissuto di incentivi al cambio delle auto, che all'estero erano terminati 10-15 anni prima, favorendo invece investimenti nel trasporto pubblico, fa parte del problema che abbiamo. L'abbiamo un po' drogato il sistema. Pensi che nel frattempo, per esempio, Milano nel 2010 aveva come contributo regionale e statale al trasporto pubblico 330 milioni, oggi sono 270 milioni, e in effetti nonostante non abbiamo più servizio di allora. Allora, no? Io devo ringraziare perché il tempo è tiranno, l'assessore Maran a Milano. Abbiamo tentato con lui di ragionare sul fatto che, come vedete, non è un toccasana, è il primo chi lo propone a saperlo. C'è un grande caos nazionale sullo scoordinamento di queste politiche e da questo punto di vista ha ragione chi dice che abbiamo cominciato 40 anni fa e come misura strutturale non abbiamo fatto grandi passi avanti, anche se il livello dell'inquinamento soprattutto industriale nella città è molto migliorato, non esageriamo da questo punto di vista. Stime scientifiche aperte a forbice, vediamo come la pensate voi. Intanto grazie all'assessore Maran, pubblicità e poi torniamo. Eccoci qui, tornati in diretta alle 8.40, primi 41 secondi. Attenti a noi due in versione per qualche giorno, ma insomma finale Befana con Oscar Genio, perché Alessandro Milan si è preso un po' di riposo con la famiglia. E noi stiamo parlando in questa ripresa della trasmissione post natalizia del grande blocco a Milano per 3 giorni del traffico, targhe alterne a Roma, che fa discutere i giornali alla ricerca disperata di argomenti post natalizi, quindi molte pagine su questi argomenti, una forbice di opinioni scientifiche diverse. Quello che è evidente, almeno dal mio punto di vista, è che sono misure episodiche, scoordinate. Restiamo in questa condizione da decenni, speriamo che piova quando viene l'autunno e l'inverno. Se non piove, ogni sindaco si inventa una misura antinquinamento, come se appunto l'aria fosse decisa dai confini dei comuni, che è una cosa abbastanza ridicola da questo punto di vista. Sentiamo come la pensano alcuni di voi che ci hanno telefonato. Gregorio da Roma. Gregorio, come la pensa? Buongiorno. Buongiorno. Intanto, allora, molto lieto di essere su questa trasmissione. Io credo che voi di Radio 24 dovreste dedicare più attenzione a Roma, perché Roma viene sempre presa come un po' una città barzelletta dove non funziona niente. Colore, forse che è lei vero, ragione, che sì. È vero, ma Roma è la capitale d'Italia e dovrebbe, ci dovrebbe essere uno sforzo collettivo per migliorare la qualità della vita a Roma. E intanto trovo che questa diatriba, questa discussione è nata dagli eventi meteorologici, come se la crisi di Roma fosse nata dal Giubileo. Cioè, se non ci fosse stato il Papa, Papa Francesco, a indire il Giubileo, i problemi di Roma potevano stare lì, noi cittadini romani che abbiamo una qualità della vita vergognosa. Per far capire meglio a chi ascolta, lei pensa che tutta la vicenda di Marino e l'esplosione dei rapporti tra Marino e PD, che ha portato poi alla fine dell'esperienza Marino, sia collegabile al Giubileo, no? No, per carità, è collegabile a una situazione di una città ingovernata. Voi non avete, voi di Milano non avete idea di quanto è deteriorato, inesistente il trasporto pubblico a Roma. A Roma chi prende i mezzi pubblici sono i diseredati, sono quelli che non hanno neanche un motorino, neanche un vecchio catorcio Euro 1 per poter andare al lavoro, perché altrimenti su un autobus o su una metropolitana a Roma non ci si sale. Negli autobus il tempo maggiore non è più il tempo di percorrenza legato al traffico. Naturalmente, Gregorio, senza lo capiamo, penso chiarissimamente quello che ha detto. Naturalmente, questo per il povero commissario Tronca, come dice sempre Alessandro Milan, è una specie di busillis irrisolubile nei pochi mesi e settimane che ha a disposizione. Faccio alcuni esempi: non voleva fare il concerto, noi eravamo solidali con lui, gli hanno imposto 4 concerti, pare 3 o 4 nella periferia di Roma, lui è nelle condizioni, il commissario Tronca, di non poter garantire i turni ATAC fino alle 3 del mattino, perché anche quest'anno a Capodanno c'è il solito problema dei macchinisti dell'ATAC che non si rendono disponibili per i turni notturni festivi, e c'è in sovrappiù lo stesso problema per i vigili urbani dell'anno scorso, tant'è che il commissario Tronca ha dovuto dire ne ho solo 300 disponibili per quella notte alle chiamate extraturno, e quindi polizia per favore datemi 1200 agenti. Adesso io non lo dico se non per difendere il commissario Tronca, però capisco che i guai sono infiniti. Certo, a me pare che le targhe alterne a ore alterne a Roma siano una sciocchezza colossale come effetto che fanno sul problema. Se il problema è l'inquinamento atmosferico, non prendiamoci per i fondelli, non è così che si ottiene, nulla da questo punto di vista. Ricordo anche, qualcuno di voi ha giustamente detto, ma come Giannino, proprio oggi che sei da solo non inizi col santo del giorno? Sì, mi sembrava un po' eccessivo ricordare che siccome oggi il 28 dicembre si festeggia nel calendario liturgico la strage degli innocenti, cioè i bambini di sotto i 2 anni che secondo il Vangelo Matteo Erode fece sgozzare, perché siccome non aveva capito dove era nato Gesù, sperava di far secco almeno Gesù uccidendoli tutti, li volevo collegare appunto alle vittime variabili a decine di migliaia, come avete visto secondo le fonti giornalistiche italiane, dell'inquinamento atmosferico. Poi mi sono detto forse un po' di cattivo gusto farlo, però siccome è la strage degli innocenti oggi, idealmente è una festività riconducibile appunto agli effetti dell'inquinamento nel nostro paese. Tra l'altro io vi ho risparmiato la parte più raccapricciante dell'intervista dell'epidemiologo Francesco Forestiere sulla Stampa, che stima anche di quanto possono salire le morti di giorno in giorno per l'addensamento delle polveri sottili. Quindi se volete raccapricciarvi torno a segnalarvi l'intervista di Francesco. Francesco Forastiere sulla stampa. Naturalmente sui giornali di oggi ci sono anche altri temi. Prima di passare al nostro secondo ospite vi ricordo solo quelli che mi hanno colpito di più. Per esempio c'è una imperdibile intervista a Sandro Bondi su Repubblica, davvero una imperdibile intervista a Sandro Bondi, perché ci sono è come una specie di ammissione finale della parabola politica di Sandro Bondi, che sapete è uscito da Forza Italia eccetera eccetera, ma è veramente qualcosa che lascia senza parole, perché i giudizi che Sandro Bondi esprime su Berlusconi sono del tutto inaspettati, per così dire, cioè sono dei giudizi definitivi, liquidatori di un Berlusconi incapace di ogni tragica serietà, anche del declino. Io cortigiano pentito, Berlusconi è uguale al conte ugolino, dice Sandro Bondi, cioè divora i suoi figli senza neanche la grandezza del conte ugolino di Dante, e quindi vale la pena di essere letto da un certo punto di vista. Sempre su Repubblica, intervista di Bassolino in cui dice al PD: il PD non pensi a sconfiggere me, mi pare che il PD a Napoli vuole solo sconfiggere me. Il PD a Napoli ha un problema, deve sconfiggere il sindaco uscente e il movimento 5 Stelle. Anche questo è un tema di riflessione, perché la parte politica sui quotidiani qui nel giorno dopo Natale è incentrata su due grandi temi: cosa farà contro la Germania Renzi, il bilancio di Renzi del 2015 e appunto i problemi dei sindaci da individuare per le grandi forze politiche nelle città. Voglio citare però un altro tema, come se fosse il mio Oscar del giorno, che non richiamo nemmeno, però l'Oscar del giorno io lo do a Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, che scrive un articolo nel quale io mi ritrovo, sarò minoritario, sul tema della riforma della RAI di questo governo, lontanissima, ne abbiamo già parlato con Alessandro Milan, da quello che alla Leopolda ci aveva promesso Renzi, perché è una riforma che in buona sostanza non ci regala un dibattito serio sulla revisione del servizio pubblico della RAI, e ci dà solo una RAI con il governo più forte, perché ha un amministratore delegato che è propria emanazione, un consiglio di amministrazione con due propri amministratori, ma soprattutto per Luigi Battista secondo me ha il giusto coraggio nel respingere l'idea che con più risorse alla RAI e senza cambiare il sistema nel discutere il servizio pubblico siamo alla logica dalla grande riforma di una RAI come la BBC al sta zitto e paga, ecco perché questo sarà l'effetto della riforma, sta zitto e paga. Ed è anche a questo punto fondato chi nella concorrenza della RAI faccia notare che è un grande aiutone all'azienda pubblica senza ridefinirle perimetri da questo punto di vista. Quindi il mio Oscar personale oggi va a Pierluigi Battista. Allora sentiamo il nostro secondo ospite. Perché il nostro secondo ospite? Perché anche sulla cultura il governo e il ministro in particolare Franceschini ha dei motivi nei suoi interviste di fine anno che ci sono su diversi quotidiani. Per esempio oggi c'è sul Messaggero un'intervista al ministro Franceschini, c'era sulla Stampa ieri, per un riepilogo dell'attività di governo in cui si sottolineano delle profonde svolte. Una, quella di fine anno dei 2 miliardi in cultura come maniera italiana per rispondere non mi viene neanche da dirlo, perché a me viene un po' da sorridere a pensare che si risponda costanzialmente in cultura alla sfida lanciataci dal terrorismo internazionale, però è stata la scelta di questo governo. Sapete che di questi 2 miliardi fanno parte anche 290 milioni di stanziamento della card culturale diciottenni. Io sarò molto critico rispetto a queste misure che mi sembrano elettoralistiche, ma detto tutto questo c'è soprattutto il grande blocco di problemi del potenziamento del bonus art da una parte, e dall'altra la scelta che ha fatto molto discutere il mondo della cultura italiana, quella dei circuito dei maggiori musei italiani, da affidare alla guida anche di grandi esperti internazionali. Il ministero, il sistema del MIBAC, i sovrintendenti hanno molto mormorato. Allora, per fare un riepilogo di questa cultura italiana, mentre molti di voi in questi giorni vanno nei musei, abbiamo chiamato il professor Andrea Carandini, grandissimo archeologo, strepitoso ricercatore che ha bloccato tutti coloro che obiettavano sulla protostoria di Roma con campagne di scavo e libri fantastici su questo, che quest'anno ha regalato a a noi che siamo suoi fan, io sono un suo fan, anche un libro bellissimo che io vi propongo di leggere, un libro che è uscito prima dell'estate, Paesaggi italiani, 3 anni con Isaiah Berlin, e in cui il professor Carandini, che nasceva come marxista da giovane, e è arrivato a passare 3 anni di studio su questo grandissimo liberale dagli anni 50 fino al 2000, ha prodotto dei testi fondamentali per chi come me è un liberista e non un illuminista, razionalista, positivista e basta. E però il professor Carandini a fine anno ha fatto un controbilancio a modo suo della cultura italiana, dicendo è presidente del FAI, quindi una delle più grandi iniziative sociali dal basso di volontariato a tutela del patrimonio artistico italiano, ed essendo stato presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, quindi a cavallo tra il mondo pubblico e il mondo privato, Carandini ha detto però lo Stato non si rende conto che l'articolo 118 dovrebbe spingerlo a considerare una vera forza gli 800.000 volontari che stanno a tutela della cultura italiana, e invece è ancora il nostro grande nemico. Allora, grazie di essere con noi, professor Andrea Carandini. Buongiorno. Allora, innanzitutto, perché lei dice a un ministro che si fa il punto di forza di aver cambiato, anche facendosi molto criticare, la chiamata alla guida di pezzi fondamentali del patrimonio italiano, non espressione diretta del ministero, lei dice sì, però lo Stato è ancora indietro nel non capire che dovrebbe dare più spazio alla sussidiarietà a noi che ci diamo da fare dal basso. Beh, naturalmente gli spazi si creano molto lentamente in un paese molto statalista, cioè in un paese dove le istituzioni hanno occupato nella cultura quasi tutto, lasciando pochissimo spazio alle iniziative della società civile. Il FAI è una specie di miracolo, un miracolo europeo in terra italiana. Questo governo è molto più aperto da questo punto di vista dei precedenti, ma naturalmente deve fare ancora dei passi avanti. Aperto, per esempio, il FAI può servirsi dell'art bonus se gestisce dei beni pubblici, ma se gli regalano, non so, una grande villa veneta, non può farlo. Privata, non può partecipare all'art bonus. E questo perché chi scrive le norme tiene conto dell'opinione, mi corregga se sbaglio, dei burocrati del Ministero, pensa che a quel punto darvi l'incentivo fiscale se il bene è privato che viene conferito e non pubblico, significa che lo Stato dà una mano al privato. È privato. Beh, che viene aperto al pubblico, naturalmente. Ma allora non basta. Allora non basta. Un valore, non è più un valore privato, è un valore pubblico perché il bene è aperto al pubblico. Va bene, comunque contentiamo entro un certo limite, non altro limite, non ci contentiamo. Un'altra apertura che c'è stata molto importante è un decreto del ministro di cui non si parla, per cui una dozzina di beni pubblici italiani vengono messi a concorso per la gestione tra delle no profit meritorie. Questa è un'apertura molto importante, ma che naturalmente non risolverà grande parte dei problemi della gestione dei beni pubblici italiani. L'altro elemento è che la riforma del ministro Franceschini, piena di buona volontà, non ha dato ai direttori dei 20 musei quell'autonomia finanziaria e del personale, i quali quindi, poco esperti della burocrazia italiana, con grande parte dei funzionari contro. Io non so come andrà a finire questa riforma di buona volontà, perché probabilmente innestare elementi di modernizzazione su una corporazione poco modernizzata non è un innesto facile. Quindi luci ed ombre. Posso farle una domanda, avendo avuto a che fare per decenni lei con la parte pubblica dei beni culturali? Ma è secondo lei una corporazione, come ha appena detto, e quindi al di là dell'impronta politico-ideologica, o è anche una convinzione molto forte che debba essere tutto Stato e pubblico, quindi molta politica e ideologia prima ancora che casta e corporazione? Beh, c'è una difesa corporativa da una parte e c'è una certa idea di sinistra molto statalistica dall'altra, che è in declino, secondo me, è in forte ritirata, ma permane e ha preso ancora sulla corporazione. Quindi adesso ci sarà questo concorso di 500 nuovi funzionari, speriamo che questo rinfreschi un pochino questo obsoleto ministero, ma bisognerà vedere che tipo di persone sceglieranno, cioè se sceglieranno dei giovani capaci sia nelle specializzazioni che nei soft skills, come dicono gli inglesi, cioè nella capacità di gestione o no. Io ho letto un libro recentemente di un segretario del ministero, che è Roberto Cecchi, il quale sostiene che è stato a capo della famosa corporazione, che sostiene una cosa alquanto impressionante. Cioè, lo Stato è capace di gestire la tutela, ma non è capace di gestire direttamente i propri beni culturali, esatto, che vanno affidati a un sistema misto privato pubblico. Ecco, io devo dire, professor Carandini, che mi auguro che veramente a lungo, per molti decenni, se posso fare ancora un augurio, persone come lei, che hanno meriti strepitosi, possano portare nella battaglia della sussidiarietà la stessa energia e prestigio che sta portando come presidente del FAI, dopo essere arrivato ai vertici di quello che era il sistema della tutela e della ricerca anche pubblica, perché anche nel suo percorso culturale, io per questo citavo prima il libro bellissimo, secondo me, che ha scritto su Isaiah Berlin, testimonia che non c'è nessuno scontro politico ideologico. Chi è convinto che lo Stato non sia bravo a gestire il suo patrimonio nella messa a reddito, nel rendere fruibile, non lo vuole smontare, non vuole levare il titolo proprietario, pensa solo che con i privati si può fare ciò che lo Stato da solo non è in grado di fare al meglio. Allora, grazie Andrea Carandini, grazie a voi tutti. A questo punto non abbiamo più tempo per le altre telefonate, ma vedrete che tanto questi giorni di chiusura questo resterà uno dei temi, naturalmente, di questa un po' asfittico dibattito politico post natalizia. Grazie ancora a voi tutti. Per chi lo volesse, io ci sono anche ovviamente alle 4:30 con la versione di Oscar, e altrimenti continuate su Radio 24.